mangiarti. Ecco, e te la dico come te la direbbe un fratello. Come te la dico se stessi ragionando su da farsi col tuo cadavere davanti. Confesso, vorrei mangiarti, divorarti, cancellarti dal sistema solare, farti diventare Plutone, cacciarti in una nave spaziale con missione di sola andata. Perché lei sta già fregata, è una regata, la sua casa sembra un'immondizia, di tizia, non mi sembra il caso di guai rimorchiare, sono un matto da legare, cazzo, non sono folle, io sono pazzo, ecco perché quando mi manovro il cazzo, sembra una cosa, sogno mio gnocchi di tipo Baywatch, ecco perché non mi frega un cazzo di te se sei floscia. Check out.